opposto alla Vergine. E invece ecco il segno che invece si è vissuto proprio la congiunzione di Saturno e di Nettuno in questi anni. E devo dire che vengono da anni che sono stati veramente difficili. Perché questo? Allora, considerate che i pesci governano la dodicesima casa, e la dodicesima casa è proprio una casa immateriale, sono anche governati da Nettuno, quindi i pesci non sanno che cos'è la materia e nemmeno la realtà. Quando gli sono arrivati i pianeti, diciamo che c'è stato questo impatto duro, no? Con quella che viene definita la realtà. Lo so che voi ancora riuscite, non riuscite a comprenderla, però devo dire che il 2026 vi libera proprio da questi transiti che vi hanno messo alla dura prova, e quindi anche per voi è un anno di totale liberazione. Ora, i pesci quest'anno saranno sostenuti dai transiti di Mercurio, perché Mercurio ogni anno fa delle soste, sapete tutti, no? Mercurio retrogrado, quindi preparatevi, perché comunque presto poi ci sarà anche questo Mercurio retrogrado che ci aiuta ogni tanto a fermarci, che è una cosa molto bella. Quindi la comunicazione per i pesci è molto interessante, anche il discorso dei viaggi, e nella prima parte dell'anno ci sarà il sostegno sempre di Giove. Quindi sono anni, cioè, diciamo che si aprono anni molto belli per voi, ma dopo aver superato delle grandissime prove. La parte finale dell'anno ci sarà una Venere che comunque transiterà tra lo Scorpione e la Bilancia per lungo tempo, quindi attenzione, perché tutti quanti noi avremo delle verifiche per quanto riguarda le relazioni, ma devo dire che i pesci saranno sostenuti anche dal transito di Venere, quindi più leggerezza, una grande liberazione e soprattutto una nuova consapevolezza per i pesci. Auguri per la vostra liberazione! Allora, questo è sicuramente un pezzo che parla di liberazione. Se quella di prima era giovane, questa è veramente giovanissima, non ho molte informazioni, l'ho trovata nei miei ascolti. È una cantautrice, diciamo, con un libro piuttosto elettronico che si chiama Badmari. Secondo me questo pezzo proprio ci sta. Si chiama Vai, vai pesci. Posso trovare la felicità nello stesso posto in cui l'ho persa. L'ho persa. Thank you. grande pesce per questa nuova vita per voi. E adesso, nuovo segno. Sagittario! Come siete, Sagittario? Allora, il Sagittario è un segno che governa la nona casa, quella dei studi superiori, la vocazione, la filosofia. Infatti quando incontrate il Sagittario, allora innanzitutto se andate di fretta non li salutate, tanto loro non sono meno, no? Sono quelli che hanno sempre tante cose da dirci, quindi tu gli dici io ho fatto questa cosa e loro praticamente parlano proprio dalla nascita dell'universo per dirci qualche cosa. Allora, il Sagittario è uno di quei segni che negli ultimi anni si è vissuto sempre questo transito di Nettuno e soprattutto di Saturno. Sagittario, sono stati anni difficili, ma per voi è passare proprio dalle stalle, quindi da tutta una serie di difficoltà legate alla gestione della casa, della famiglia, tutte queste robe che mi hanno un po' complicato la vita, e invece il 2026 vi posso mettere sul trono dei segni che staranno bene nel 2026, soprattutto le persone nate nella prima decade, perché comunque i pianeti lenti ci mettono un po', però già cominciamo a sentire questa energia molto molto positiva, perché Saturno e Nettuno dalla quadratura, che è l'aspetto dei 90 gradi, e quindi solo se consenziente è bello, e poi si passa alla fase di trigono, che è un aspetto che in astrologia è molto armonico. Quindi vi si presenta un anno di grande costruzione di cose più stabili, soprattutto il fatto che ritrovate la vostra strada. E la notizia ancora più bella è che anche Giove alla seconda parte dell'anno si metterà in aspetto di trigono, quindi già avete tre pianeti potentissimi che vi aiuteranno a stare bene e soprattutto a sentirvi di nuovo felici. Ma per tutti gli altri invece dello zodiaco, noi saremo contenti perché ritroveremo i Sagittari ottimisti di un tempo. Sagittario, oltre a invece sta testa, sinciclopedia in testa, è proprio il segno che è mezzo animale e mezzo uomo. Quindi, allora, poi Sagittario riconoscete, soprattutto quelli grandi, al terzo drink si tolgono la maglietta, si spogliano, cioè avete presente Jim Morrison? Ecco, questo lato umano, ma anche molto animale, perché sono molto passionali. E la stabilità non è la certezza che lo sta cercando. Questo pezzo non ha bisogno di presentazioni, però è veramente l'essenza del Sagittario con Giove che lo spinge proprio. Thank you. torneremo a sorridere. Dopo il Sagittario? Capricorno. Capricorno. Allora, Capricorno governa la decima casa. Considerate la decima casa il punto più alto di un tema natale, quindi è come raggiungo l'autonomia nella mia vita. Ecco, Capricorno, poi non nasce, po' vecchietto. Allora, quando loro nascono hanno orecchie a punta e nuche e sono più saggi dei genitori che l'hanno messi al mondo. Ma perché questo? Proprio perché devono portare i genitori con i piedi per terra. Allora, Capricorno, cominciamo col fatto che Saturno, che è il vostro pianeta guida, quest'anno si metterà in quadratura, toccherà soltanto le prime decadi del segno. Allora, quindi si apre un periodo un po' complesso della vostra vita dove dovete cercare di capire quello che avete cominciato 7 anni fa. Cosa avete cominciato? Che direzione sta andando? Ora, il consiglio delle stelle è, visto che comunque voi cercate sempre questa autonomia, è un po' siete il riflesso di quello che fate. Innanzitutto il consiglio è, siccome siete il segno che appunto nasce saggio tipo Yoda, poi piano piano ringiovanite. Allora il 2026 vi chiede di non sovraccaricarvi troppo di responsabilità, perché questo è un vostro difetto, e quindi visto che avrete un Saturno in quadratura sarebbe bene che non vaccollate troppo le cose degli altri e che soprattutto nei nuovi progetti fate quello che dovete, non di più, perché voi fate sempre di più di quello che dovreste fare. Quindi il consiglio è fare meno e di occuparvi di più delle relazioni. Mi raccomando, nei nuovi progetti, insomma, di non esagerare. Quindi siete tra i segni che ovviamente si vivono questo aspetto di Saturno negativo, e anche Giove che è in aspetto di opposizione fino alla metà di giugno. Allora attenzione, perché l'opposizione di Giove a volte, soprattutto per chi ha l'ascendente, vuol dire incontro una persona con cui voglio stare, perché il Capricorno cioè sono nati soli, poverini, e però loro sognano di averci una bella relazione, di costruisse una nuova famiglia. Allora potreste già aver incontrato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore, con cui condividere, diciamo, le rate del mutuo, da televisione, qualsiasi rata, perché comunque il Capricorno la dichiarazione d'amore non è te amo, ma ti faccio vedere quanto sono bravo a costruire i mobili, qual è il mio conto in banca, e poi sostanzialmente cerchiamo di avere una bella relazione. Allora, sarà un anno complesso sotto certi punti di vista, però la seconda parte dell'anno è migliore e anche voi vi troverete in questa seconda parte dell'anno per capire meglio come impostare le relazioni. Ma il discorso è, mi raccomando, non dedicatevi soltanto alla parte professionale d'autonomia, perché il Capricorno devi dimostrare all'arte che è capace di averci i soldi, ok? Vi dovete occupare dell'amore, questo è quello che vi dice 2023. Allora, Capricorne e Capricorni, prendete qualcuno per la mano e mostrategli il vostro mondo favolosamente complesso. Pezzo di Meg che si chiama Maria, ma non c'entra molto con te. Ci provo di nuovo, ti parlo più piano, di nuovo nel vuoto, nella vecchia cavo, e sono perché sono più vino davvero, se guardo di lato non mi sento al sicuro, mano nella mano, solo mi andiamo, non momento solo, respiro ci fermiamo, mano nella mano, Parliamo, tant'è vero che i gemelli, praticamente, quello, la missione della vita è proprio imparare a comunicare con gli altri, ma attaccano delle filippiche infinite di per Sagittario, ma di comunicare anche con la parte triste di stessi. Preparatevi, gemelli, perché a voi vi ho messo sul podio del 2027. Perché ho fatto questo? Allora, Saturno e Nettuno negli ultimi anni hanno fracassato l'anima, mi hanno chiesto che vuoi fare da grande, i gemelli hanno detto io grande, non ci diventerò mai, perché sono, diciamo, gli adolescenti dello zodiaco. Allora questi pianeti escono la quadratura e si mettono in aspetto di sestile, che è un aspetto gentile. Ora, il discorso è che di tutti i pianeti letti che si spostano, voi avrete la congiunzione di Urano. Urano è stimoli, cambiamento, imprevisti. E i gemelli, praticamente, mentre stanno qua, fra un'ora e mezza c'è un appuntamento da un'altra parte, poi tornano qua, poi vanno da là e si muovono in continuazione. Allora, non avrete nessun pianeta lento negativo nel 2026, ok? Dobbiamo aspettare il 2027, a metà del 2027, giusto per rovinarvi un po', perché tutte queste cose belle non si possono dire. Quindi attenzione, perché veramente voi siete quelli che io vedo messi meglio per quanto riguarda quest'anno. Allora, a metà di gennaio tutti i pianeti andranno in acquario, quindi comincerà un momento molto bello nella vostra vita. Ah, che figo, è tutto bene, non vi preoccupate, perché ci sarà il momento da metà febbraio a metà marzo, diciamo prima della primavera, che ci sarà un attimino un momento di defaianza, vado un calo, cioè ostemio mi impesci, quindi confusione totale. Ma poi diciamo che da quando Urano entrerà nel vostro segno, la vita, definitivamente nel vostro segno, la vostra vita prenderà delle pieghe completamente diverse. Non c'è bisogno di andare a cercare novità, è la novità che cercherà voi. Godetevela, state meglio di tutti! Allora, da DJ posso dire che i gemelli spesso sono le regine della dance floor. Esatto! Allora, non potevo dedicare questo pezzo di Whitney Houston, è una dance floor. Ah, oh! Oh, Intelligenza artificiale, i robot che ci perderanno per strada, aiuto come fa a scappare, però la rivoluzione sarà fatta dai giovani e quindi dai, noi vi seguiremo, io ormai comincio a averci i capelli bianchi e ce l'ho da poco. Comunque, signor, facciamo come toro, toro, stiamo a respiro. Allora, cominciamo dal fatto che il toro governa la seconda casa, il secondo campo. Che cosa rappresenta la seconda casa? I valori e i talenti. Quindi è anche quello, come parte del corpo abbiamo la gola. Dove li trovi i toro? O a mangiare o a guadagnare i soldi per stare tranquilli e sereni. Allora, per il toro abbiamo delle notizie importanti, perché è un segno che gli piace la stabilità, ok? Sta stabilità negli ultimi 7 anni è mancata proprio per Urano. Allora, mentre i gemelli sono felici, no? Perché si muovono in continuazione di questo Urano, la congiunzione di Urano per il toro è stato il tormento della loro vita. Allora loro andavano con la foto dei loro capelli, del loro aspetto migliore, andavano dal parrucchiere e dicevano: "Ma vai i capelli in questo modo?" E niente, quando uscivano praticamente non erano mai soddisfatti. Allora vi posso garantire che finalmente potrete andare dal parrucchiere, avere il giusto taglio, essere soddisfatti della vostra immagine finalmente, quindi sarà un anno molto più stabile. Ora, il discorso è che voi in realtà venite da anni che sono stati buoni, lo so che per voi potevano essere di più, e di più arriverà tra la metà del 2027, perché Giove entrerà in Vergine e il prossimo transito di Saturno sarà nel vostro segno nel 2027-2028, quindi preparatevi a quelli che sono i nuovi inizi. Allora, la prima parte dell'anno è quella più interessante, praticamente a gennaio avete guadagnato soldi, avete fatto un sacco di cose fighe. Poi ci sarà questo momento, perché bisogna essere sinceri, non è che a stronza siamo inventato per offendere la gente, ma dobbiamo dire i transiti come sono. Quindi a un certo punto, toro, state tutti, allora, tutto bello, poi a un certo punto tutti questi pianeti, abbiamo detto, si spostano in acquario, quindi sto cambiamento, sta rivoluzione, queste cose, che queste carte in tavola che cambiano e che a voi non mi piacciono molto. Quindi attenzione, perché da questa metà di gennaio alla metà di febbraio ci sarà un momento di defoyance, di certe cose che non vi piaceranno, ma poi la situazione indubbiamente migliorerà. Un altro aspetto molto da attenzionare sarà quando Giove si metterà in quadratura. Allora, Giove è un pianeta che parla di fortuna e di espansione. Quando si mette in quadratura può dire che non riesco a valutare bene le situazioni perché le vedo con troppo ottimismo. Quindi ci può essere una sopravvalutazione delle cose che vengono. E Giove a volte parla anche di legalità. Quindi considerate che il toro ha legalità, ci sta sua legalità, poi dopo parliamo di altri segni che ha legalità non sanno ancora che cosa vuol dire. Quindi per voi parliamo più del fatto di attenzione, perché ci potrebbe essere, diciamo, un non riuscire a vedere le situazioni effettivamente per quello che sono, per degli occhiali rosa, ma la buona notizia di un giovane in quadratura è che si dimagrisce. Dai! Quindi auguri d'oro! Auguri d'oro! Per una ritrovata stabilità! Una ritrovata stabilità! Dai! Ritrovata cara stabilità! Ci vengo, allora, dai! Questo è un pezzo di Anna Castiglia, che è una cantautrice catanese che ha vinto il premio Tempo nel 2025. Okay. Allora, visto che al Toro piacciono i cambiamenti ma non troppi repentini, ho selezionato questo pezzo che si intitola Decostruire, che è un po' una parola inflazionata, non tanto quanto resilienza, perché quella proprio... però parla di una rivoluzione ma non troppo veloce, una decostruzione. Decostruire una parola alla moda, mentre lo dico pensi che sia noiosa, ma mi interessa, non sarò la tua sposa, che bella nosa. Decostruire una parola elegante, che mi autorizza a togliere le mutande, tutte le volte che mi vale, anche se sono tante. Stavo dicendo adesso che mi libererà, ma troppo spesso penso a te. Avvantaggiati, altri meno, ma non è che è l'anno di nessuno, questo ci tengo a specificare, perché ogni segno avrà un pianeta che gli rimerà contro. No, perché poi se ne creiamo queste grandi aspettative, e poi dopo ci dirà, ma hai detto che era l'anno mio, stronzo, esatto. Mi piace quando mi chiamate stronzo. Proprio perché questo comunque è un anno dei nuovi inizi, quindi non ci dobbiamo minimamente preoccupare di questa cosa, ma quello che ci guiderà è il fatto che stiamo cominciando una nuova vita e che soprattutto siamo davanti a una nuova società che saremo noi a costruire e non i poteri forti. La rivoluzione è in atto, l'abbiamo già vista, anche in Iran si stanno muovendo. Che segno? Cancro! Va bene il cancro? No, leone dopo, mi devo far aspettare. Facciamo il cancro, vabbè, facciamo il cancro. Il cancro, mi devo preparare, aspetta. Col cancro bisogna andare piano. Il cancro governa la quarta casa, La quarta casa è proprio quella delle radici, la memoria, la famiglia, tutte queste cose molto importanti che possiamo anche lasciare andare. Allora, segno governato da una, loro si svegliano, hanno un umore, dopo 2 ore e mezza ce n'hanno un altro, dopo 2 ore e mezza ce n'hanno un altro. Tu l'hai mai capito il cancro? Io non ho mai capito il cancro. Allora, cominciamo dal fatto che anche il cancro si troverà la quadratura di Saturno. Ora, per quanto riguarda il Capricorno, la quadratura di Saturno interesserà soprattutto l'ambito della casa e della famiglia. Per il Cancro invece parliamo della professione, di diventare grandi. Allora, venite da anni che in realtà vi hanno fatto crescere ed espandere, anche se per voi ancora sembra che non abbiate fatto niente, avete raggiunto dei grandi risultati. Quindi questi grandi risultati, chi ha preso la laurea, chi ha raggiunto un dottorato, chi una relazione stabile, che comunque il Cancro da solo non si è mai visto, anche perché se voi siete state col Cancro una volta c'è state tutta la vita, anche se ve lasciate, questo rendetevi consapevoli, che non vi lascerete mai con un Cancro, è un cordone ombelicale. E quindi diciamo c'è questo Saturno che dice ok, che farai nella professione dopo aver fatto tutti questi percorsi? Fortunatamente non esistono solo Saturno e Nettuno, ma vi volevo dire, perché al Cancro si dai solo un po' le notizie, ecco, non so se torna a casa, non so se torna a casa, quello che vi volevo dire è che ci sono, allora innanzitutto c'è Giove in congiunzione nel vostro segno fino a 30 di giugno esattamente, e Giove in espansione può portare anche maternità o paternità per chi li vuole, quindi per chi non li vuole attenzione, le giuste precauzioni. Il fatto che comunque il vostro centro vita si è espanso, ok? Quindi insomma, e però vi voglio dire che nonostante ci sia questo aspetto di Saturno che vi rompe le scatole, voi avrete sempre il sostegno di Mercurio, che farà sempre le soste in segni di acqua, quindi tutti i segni d'acqua che sono Cancro, comunque Scorpione e Pesci avranno il sostegno di Mercurio. Per quanto riguarda il Cancro, cosa vuol dire che c'è Mercurio favorevole? Al di là che ci possono essere amici, contatti con l'ex che vi manda le foto di V mentre voi mandate le foto di V, tutte queste cose qua, insomma, ci continuiamo a sentire tutta la vita. Il discorso è, cari Cancro, se c'è qualche cosa che non vi sta bene, sapete che cosa potete fare? Potete semplicemente dirlo, senza fare quegli occhioni da ciuchino, perché l'altro non mi capisco, io volevo dire questa cosa, l'altro non mi capiscono, cioè voi mi offendete, però l'altro non sono consapevoli del perché voi vi siete offesi. Quindi Mercurio vi dice, c'è qualcosa che non va? Parlate e l'altro finalmente riusciranno a capirvi, comprendervi e magari venire dalla vostra parte. Forza Cancro, usate la voce per esprimere i vostri sentimenti. Dai, eh! Vabbè, mi sento un po' coinvolta. Anche se non sono Cancro, ma ascendente basta. Poi lo scopriremo. Esatto, dopo lo diremo. Tanto sappiate che è ascendente Cancro, quindi non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai, infatti. Allora, questo pezzo, tanto introduco, un pezzo di una cantautrice, ovviamente, che si chiama Mille, quindi local di Velletri, quello che io so, e parla appunto di qualcuna che trova un maledettissimo posto migliore, ovviamente non da sola, perché insomma non lo trova grazie a Mercurio, che le dice vai di là. Vai tanto. Yeah. facciamo, che è la cosa più importante. Lo dice il cancro questo, eh? Non lo diciamo, Virginia. L'Ariete non li fa mai aspettare perché loro sono abituati a recitare. Ariete è abituato a essere primo. Avevo detto che signor facciamo l'acquario, facciamo. Allora. Oh, amore, acquario? Amicizia, acquario. Allora, l'acquario è il segno che governa l'undicesima casa. Fatemi vedere dove siete io. Allora, undicesima casa sono i progetti fatti insieme agli altri, il sociale, il collettivo. E abbiamo detto che avete Plutone che nei prossimi 19 anni vi guiderà in situazioni di potere. Ecco che l'acquario si sente male. Anche il nodo nord ci indica di andare verso questa energia, dove siamo tutti uguali proprio perché siamo tutte persone completamente diverse. Questo ci dice l'astrologia, ok? Non c'è una persona uguale all'altra, ogni leva natale è a sé stante. Allora, cari acquario, abbiamo detto che Plutone vi guiderà anche il nodo nord. Le notizie buone sono tante, a voi vi posso dire pure le notizie buone e poi vi dico l'unica negativa che ci avete, perché abbiamo detto che ogni segno c'ha almeno un pianeta contrario. Poi ci tengo a specificare che l'anno è fatto dei 12 mesi e che non esiste una persona che ha 12 mesi di fila favorevoli, ma che al massimo in una settimana 5 giorni ci dicono bene e almeno 2 giorni tiriamo giù tutti i santi. Comunque, Urano si mette in aspetto positivo d'aprile, Saturno e Nettuno si mettono in aspetto di sestile, quindi per voi comincia una fase di costruzione e di stabilità. Attenzione, perché proprio 15-20 di gennaio tutti i pianeti cominceranno a spostarvi nel vostro segno, quindi accadranno delle cose importanti proprio in questo inizio di anno. Devo dire che siete tra i segni positivi, però voi chi ci avete contrario? Giove. Giove, abbiamo detto, fortuna e espansione. Non è che l'acquario lo troviamo a mangiare, l'acquario lo troviamo a bar a bere, perché è così, perché comunque in generale è proprio il segno della socialità. A voi lo devo dire questa cosa, attenzione sulle questioni legali, perché in un Giove in opposizione, cioè l'acquario e le regole sono due cose diverse, no? Perché l'acquario è proprio un segno che va a rompere quello che è la situazione con il vecchio, quindi a chi ha delle magagne, diciamo che dalla seconda parte dell'anno con Giove in opposizione ci potrebbe stare sta cosa, però ci possono anche essere delle relazioni molto interessanti, ma diciamo che voi tanto non ve ne frega niente di come stanno i pianeti e andrete per la vostra strada, comunque non state affatto messi male. Relazioni interessanti, ma attenzione, esatto, quindi poi attenzione con la legge, ecco, quindi questi eccessi vanno un po', esatto. Allora, pezzo originario di Raffo, del 74, però contemporaneamente alla, al pezzo originale, cover che penso che sia la più conosciuta del pezzo di Raff, è Laura Bergman, in realtà, non so, non mi ricordo bene il nome. Comunque, penso che questa debba pagare i diritti tutta la lista. Però, acquario, mi raccomando, un po' di self-control. Ah, oh! ce la farete comunque, saremo bilancia. Ci sta tutto perché volevo svelare proprio il segno di Michele Brand della bilancia, da che si nota dalla qualità dei pezzi che ho scelto. Non sono trash nella vita. Bilancia, dove siete? Allora, come possiamo definire l'anno della bilancia? Allora, la bilancia governa la settima casa. La settima casa è proprio la relazione con gli altri. Per farvi un esempio, tutti noi sappiamo quello che è l'ascendente. La settima casa è proprio sempre l'opposto dell'ascendente. Quindi io sono dell'Ariete, quindi ho un modo brusco di pormi, e il mio discendente, quindi la settima casa, è sempre l'opposto dell'ascendente. Quindi la bilancia è uno dei miei segni che va verso l'altro, la relazione. Su questo colgo l'occasione di dirvi che comunque tutti i segni hanno dei lati luce e dei lati ombra, e che ultimamente invece di vedere proprio questa bilancia che cerca l'armonia nelle relazioni, le più grandi potenze mondiali, quindi da von der Leyen, il non caro defunto Berlusconi, ma Netanyahu, Putin e anche il nuovo presidente di sindaco di New York, è della bilancia. Questo per farvi capire che non è un segno da coppia, è un segno proprio che è interessato alle relazioni con gli altri. Allora, questo ho preso tutto questo tempo per dirvi che la bilancia si vibra l'opposizione di Saturno e di Nettuno nei prossimi anni. Quindi il testimone della Vergine, che non ho faticato, la Vergine, la fatica, il dovere, noi ci siamo nate quasi, no? Madre Teresa della Tutta, mentre la bilancia è un segno che la pezza sotto l'ascella non gli piace. Cioè tu la bilancia devi presentare sempre, non col calzino bucato, se vuoi portare la bilancia mi raccomando, sempre vestiti bene, nessuna scotteria. Tutto questo tempo per dirvi che, care bilancia, verrete toccati da tutti quanti i pianeti lenti in questo 2026, e diciamo l'opposizione di Saturno in realtà è un aspetto molto importante nella nostra vita. Allora, innanzitutto è quello che avete cominciato 14 anni fa all'incirca, perché dovete sapere che Saturno scandisce la nostra vita e quindi ci fa capire a che punto siamo. Soprattutto la bilancia della prima decade è quella che si vivrà l'opposizione di Saturno. Ma che cosa vuol dire l'opposizione di Saturno? Che se io ho seminato bene nella vita avrò un riconoscimento e quindi salirò più in alto, conquisterò dei ruoli di potere. Se io invece non ho agito bene, questi ruoli di potere potranno cadere. Quindi abbiamo elencato chi, diciamo, potrebbe andarsi a quel paese. Per le persone presenti invece ci potrebbe essere questa grandissima ascesa. Qualsiasi cosa succederà nella vostra vita, cioè se ci saranno dei cambiamenti repentini, dovete sapere che se avete sbagliato strada troverete dei nuovi percorsi, perché comunque questo nuovo aspetto di Urano, come anche di Plutone, saranno a sostegno del vostro segno. Quindi succederanno delle cose importanti, ci saranno delle bilance che cresceranno ancora di più a livello professionale, altre che cambieranno indirizzo di professione, ma magari possono cambiare casa, possono cambiare partner, oppure possono decidere che quella persona con cui stanno celebriamo, sapete, perché al matrimonio diciamo alla bilancia gli piace l'unione legalizzata, l'unione che bello, ti faccio vedere, e quindi tu devi essere figlio, per questo non è che poi tu sarà spettinata, hanno detto qualcuno, no? Quindi succederanno delle cose molto interessanti dalle vostre vite, per sapere se è bene o se è male, devo sapere voi come avete agito in questi anni. Se avete agito bene, crescerete. Se invece non vi siete mossi nella giusta direzione, andrete verso un altro, succedente. Certo, quello che vi posso dire è che un Saturno in opposizione, proprio per esperienza, perché mi sto uscendo, vuol dire posso crescere professionalmente, quindi le amicizie mi chiameranno, diranno io sto andando alle Terme, poi venire la bilancia dirà no, mi dispiace, devo lavorare. Quindi attenzione, perché ci potrà essere questa grandissima ascesa che vi chiederà più impegno e fatica, meno divertimento. Ma ce la farete sempre. Comunque questo gennaio è stato abbastanza difficile in realtà per la bilancia di Natale, perché non è mai il vostro mese gennaio, perché gli anelli sono in Capricorno, ma questo stelio in Acquario vi aprirà a una nuova vita, a un nuovo percorso. Auguri cari bilancia, ce la farete sempre. E comunque sicuri che faremo sempre, e allora non c'è il dubbio, no? Con un po' di Sanana. Quello che voi avete detto è uno dei segni più profondi dello zodiaco. maniaco, quindi attenzione, perché qualsiasi cosa che voglio dire, loro comunque la potrebbero rigirare contro di voi, mi raccomando. Allora, perché abbiamo sempre visto questo lato dello scorpione, che c'è la vendetta. Allora, la vendetta dello scorpione avviene solo nel caso in cui questo segno si sente ferito, quindi mi raccomando, attenzione, non ferirli come il cancro, salutate così a buffo e loro saranno comunque contenti. Ma il discorso è proprio la profondità e soprattutto la ricettività di questo segno. Come il cancro sempre, lo scorpione, tu devi cercare di capire, ma loro si capiscono manco da soli, in realtà. Perché esiste tutto questo profondità incredibile. Allora, lo scorpione è uno di quei segni che è sempre sul 2025, soprattutto la parte finale, che è stata altamente interessante. Non ve potete lamentare. Allora, perché si lamentano gli scorpioni adesso? Perché loro vivono dei dramma, dei passioni, delle complicazioni. Quindi se volete uno scorpione accanto, mi raccomando, il segreto è importante, non gli potete imboccare dentro la stanza, perché loro si arrabbiano. Allora, venite da un momento molto importante. Questo non ne voglio dire che il 2026 è male affatto. Il discorso è che la prima parte dell'anno è molto interessante. Abbiamo visto un gennaio che è stato bello, è stato soddisfacente. Poi a un certo punto, da metà gennaio, 15-20 di gennaio, i pianeti si sposteranno nel segno dell'acquario e quindi cominceranno a venire le turbe mentali. Queste sono le istruzioni per l'uso per chi vive con lo scorpione. Non vi preoccupate, perché all'incirca durerà 20 giorni, una settimana vi toccherà. Dopodiché tutti i pianeti vanno in pesce e vi sentirete bene. Fino al 30 di giugno avrete Giove in sostegno, quindi benessere, mangiare, fiducia, ottimismo. Cioè, abbiamo trovato dei scorpioni che ridevano addirittura, no? Che uscivano e volevano socializzare alla luce del sole, è una cosa incredibile. Allora, a loro gli piace la grotta, gli piace la cantina, gli piace tutto ciò che è nascosto. Attenzione, perché Giove cambierà aspetto, si metterà in quadratura, quindi la legalità per voi non lo sapete manco che, quindi è inutile che ve lo so a dire, ci possono essere, diciamo, questo tipo di complicazioni. Il discorso è che Saturno e Nettuno non vi toccheranno, faranno un aspetto neutro, come si dice in astrologia, e quindi sarà un anno in cui sarete meno sulla scena, e questo pure è un'altra cosa che comunque vi piacerà. Ora, scorpioni, poi il discorso del cancro, avrete sempre un Mercurio favorevole, vi chiamano, vi propongono le cose, andiamo in spiaggia, andiamo a pranzo fuori, invitatevi a cena prima di tutto. Ancora un po' di gioia che ti servirà, io ve lo dico, e soprattutto questo discorso che anche voi, se magari dite quello che volete, la gente vi capisce, perché siete un rebus dello zodiaco. Infatti questa canzone di Maria Antonietta, si chiama così, cantautrice marchigiana. Ma io ho morto il traletto. Descrivi abbastanza le personalità scorpioniche e si chiama deluderti. Mi piace, ma tu mi piace. E io non ho intenzione di deluderti, ma questa è la mia faccia, la mia fiducia non intatta, un nuovo senso di presenza. E se non mi amerai, avrai i tuoi pensieri, anche i tuoi miei, non te li dico mai, niente così. Io mi ci trovo bene, dormito. Perché loro vivono di tormento, quindi si dice guarda saranno bello, loro non vivono sereni. Allora, l'opposizione di Urano sta per terminare, anche lo Scorpione ha vissuto momenti di instabilità con una tensione a sto segno, in realtà non è come Toro sta sfruttando. Quindi buona liberazione anche per voi Scorpione, adesso c'è la guerra vera. Ariete o Leone? È difficile, eh? Allora, Niccolò, dimmi tu. Ariete. Scusate, ma poi c'è il mio fan più piccolo e immancabile, e quindi scegliete voi. Ha detto che dico Ariete. Ariete, anche perché immancabilmente il Leone è sempre tu. No, poi Ariete se no la lasciate per l'ultimo perché se no torna a casa. Ariete, dove siete? Allora, l'Ariete governa la prima casa, quindi l'ascendente, è governato proprio dall'Ariete, che sarebbe la personalità, l'identità. E come abbiamo detto, sia Saturno che Nettuno, poi diciamo sono due elementi che hanno fatto una danza in tutto il 2025 per decidere di congiungersi proprio nel segno dell'Ariete. Allora, per voi si sta aprendo un nuovo capitolo della vostra vita. Dovete capire che l'Ariete è il segno dell'inizio, loro cominciano delle cose, poi le dovete continuare voi. Qual è la notizia? È che l'Ariete si becca Saturno in congiunzione. Saturno dura il suo transito 3 anni. Ora è attivo per ogni segno zodiacale al massimo 6 mesi. Ci tengo a specificare che non esiste nessun pianeta che è attivo per 14 anni, 11 anni o 3 anni. Ma gli aspetti devono, diciamo, i pianeti devono formare gli aspetti sopra il nostro tema natale. Quindi gli Arieti di prima decade soprattutto, gli altri se lo vivranno negli anni successivi, quindi noi avremo Saturno 2026, 2027, 2028, poi passerà nel segno del Toro. Intanto, tutti gli Arieti che nascono già nella prima decade sono proprio all'inizio di un nuovo percorso della vita. Quindi ci sono degli Arieti che decideranno di fare qualche cosa che durerà nel tempo. Pensate, non ci saranno più gli Arieti che stanno lì e poi stanno di là e poi stanno di là. Non tornano indietro l'Ariete, va sempre dall'altra parte. Soprattutto se li andate subito, questo è importante da sapere. Quindi, attenzione perché l'Ariete si troverà proprio in una fase nuova della vita. Allora, l'Ariete la vede la realtà, se la crea soprattutto, se la crea pure a noi, poi ce la lascia, eh? Quindi, attenzione perché voi prendete lo scettro di Saturno in congiunzione, i pesci quelli stanno da un psicologo, però loro non sanno che cos'è la realtà, mentre all'Ariete gli piace la sfida, quindi per voi non sarà così terribile come è stato con i pesci. Quindi noi dobbiamo vedere quali sono i segni zodiacali e quali sono i pianeti, cioè per fare un oroscopo io vi voglio dire che ci vuole tanto tempo se lo vogliamo fare bene, perché l'oroscopetto così alla qualunque sono capace un pochino tutti quanti. Quindi questo per dire che state cominciando un nuovo percorso della vostra vita, che voi alla fatica non vi spaventa minimamente e che soprattutto in questo nuovo inizio siete sostenuti da tanti pianeti. Ora, gennaio difficile, però l'Ariete che le cose difficili gli piacciono assai. La primavera è un momento molto importante, ma il clou della vostra vita è quando Giove entrerà nel segno del Leone. E questo vuol dire che comunque tutti gli inizi dell'Ariete, ci sono degli Arieti veramente cambio casa, ci sono degli Arieti che decideranno del bigliano o comunque di cominciare un nuovo progetto nella vostra vita. Ecco, questi progetti sono sostenuti sia da 21 sono dei chiarieri proprio che realizzeranno i propri sogni che negli ultimi tempi non riuscivano a realizzare, ma anche Urano e Plutone li sosterranno. Quindi nuovi inizi che saranno impegnativi, che faranno sudano, poi siete una bilancia, poi vi piace la bilancia, guarda il muscolo, guarda, no? Tutti belli sudati. E quindi dai, con questi nuovi inizi. Incredibile. Ovviamente l'Ariete com'è che inizia le cose? Spaccando tutto, cioè le mornazze. Esatto. Quindi spacco tutto, pezzo di Meg e Ginevra, Santa Voce Torinese. Sorry! Successo qualcosa. Live è live. Portandovi a dei grandi traguardi, ma il traguardo più bello sarà raggiunto proprio dalla congiunzione di Giove. Quindi il riconoscimento dopo 7 anni in cui vanno messo in esilio finalmente arriverà. Contenti leoni, considerate che per noi altri dello zodiaco vuol dire che loro saranno tipo Radio Maria Arcidopolo. A giugno qualsiasi cosa, cioè il leone ci manderà i video, ma ci farà anche tutte le cose fighe che faranno, poi tu li chiami, ti dovrà puntare una cosa, tu a loro non ti risponderanno mai, perché sono già occupati a parlare con chi dicono loro. Allora sicuramente, cari leone, devo dire che dopo tanti anni arriva il momento del riconoscimento, un grande traguardo della vostra vita, ovviamente se avete lavorato bene. Specificare che Giove, abbiamo detto, fa ingrassare, fa arrivare maternità e paternità, insomma tutte queste cose qua, ma qualsiasi cosa farete sarà in bella vista, quindi se vi comportate bene, sempre questo il discorso, dipende da noi, non dipende dai pianeti, quindi se voi fate qualche maragella poi lo sapranno tutti, andrete a finire su tutti i giornali, sia nel bene che nel male. Quindi mettiamo il leone fra i segni che stanno bene nel 2026, perché abbiamo 3 pianeti lenti che sosterranno questo segno. Giove espande la propria personalità, quindi tanti auguri leone, perché finalmente arriva il vostro momento, soprattutto da giugno del 2026. Come per il leone, questo pezzo non ha bisogno di presentazione.